Capitolo 45. Costa Ferrarese. 4 giorni dopo. L'imbarcazione, lunga e stretta, viene trascinata in secca dai marinai. Con il braccio sano aiuto Demetra a trascinare i lembi della sottana inzuppati d'acqua. Perna, dall'altra parte, immerso fino alla cintola, impreca sottovoce. Ci fermiamo sull'arena, sotto il sole opaco che non scalda. Demetra mi tocca la fasciatura. Stai attento a non bagnare la ferita. E mangia molta carne. Hai perso un sacco di sangue. Le sorrido. Il trucco riesce appena a coprire i lividi sul volto. Non ti preoccupare, hai fatto un ottimo lavoro con questo braccio malconcio. Sarà come nuovo. Joao e Bernardo stringono la mano al piccolo Pietro. Siete sicuri? Pietro allarga le braccia. I punti di sutura sullo zigomo lo costringono a tenere un occhio semichiuso. Andiamo, Joao, mi ci vedi in mezzo ai maomettani? Il turbante non mi dona affatto, e poi quella gente non beve vino. Non beve nient'altro che acqua. No, grazie. Non fa per Pietro Perna da Lucca. Preferisco restare. Lancia un'occhiata compiaciuta a Demetra. Sarò in ottima compagnia. Bernardo lo abbraccia, sollevandolo di peso. Duarte lo bacia sulla guancia illesa, facendolo arrossire. Gli occhi smeraldo di Demetra sono lucidi. Le accarezzo il volto. Cosa farai adesso? Ricomincerò, da qualche parte, credo. O forse accetterò la proposta di Pietro. Me la caverò, non temere. Perna è imbarazzato. Ferrara è sempre una buona piazza, capito? Un buon punto di partenza per cominciare. Ho ancora parecchi contatti sparsi qua e là per l'Italia. Ci sarà molto da fare. Si continueranno a stampare libri, amico mio, non temere. L'ingegno degli uomini troverà il modo di raggirare gli indici e magari un giorno perfino di cancellarli. Servirà sempre qualcuno che se ne vada in giro a vendere libri. Stanne certo. Detto da te, Pietro, suona come una garanzia. Ridacchia, commosso. Ci abbracciamo. Joao indica il sentiero al margine della pineta. La carrozza vi sta aspettando. Pietro raccoglie il sacco. Addio, testa quadra di un tedesco. Abbassa la voce. Guardati le chiappe in mezzo ai maomettani. E attento a dove infili l'uccello, capito? Poi sorride. Addio, a tutti quanti. Demetra, buona fortuna, Ludovico. E buon viaggio. La miglior fortuna a tutti e due. Si incamminano sulla sabbia umida. Lui, piccolo e tondo, lei, alta ed elegante. Sul limitare degli alberi, Perna si gira verso di noi, a sbracciarsi in un ultimo saluto. Grida qualcosa che il vento si porta via. Li vediamo scomparire in mezzo ai pini. Joao mi affianca. Dobbiamo andare. La barca di Donna Beatrice deve aver già raggiunto la nave. Ci accoglie sul ponte dell'ammiraglia della flotta dei Mickets. Il vento ha sciolto alcune ciocche dell'acconciatura, senza togliere nulla al fascino di donna, donandole anzi un'aria sensuale che prende al basso ventre e al cuore. Le bacio la mano, tenendola per un istante tra le mie. La prospettiva di viaggiare al tuo fianco rende più dolce la sconfitta, Beatrice. Si toglie i capelli dal viso, con una carezza. Sconfitta, Ludovico? Lo credi davvero? Non siamo forse ancora vivi e liberi di solcare il mare? Bernardo lancia alcuni ordini al capitano della nave. Da un capo all'altro del ponte risuonano fischi e avvertimenti. Le sorrido. Hai ragione. Non aggiungo altro. La figlia e la giovane serva l'accompagnano alla cabina. Joao, dal castello di poppa, mi fa segno di raggiungerlo. Il capitano dice che il vento è favorevole. Meglio non perderlo. Arriverete a Lissa in un paio di giorni al massimo. Poi Ragusa. Altri 2 giorni per Corfù. Una volta raggiunta Zante, sarete fuori dalla portata dei veneziani. Cosa significa? Abbassa lo sguardo. Io e Bernardo torniamo a Venezia. Sei impazzito! Vi vogliono morti! Il sefardita fissa la linea della costa, sfumata dalla nebbia. Sospira. Ludovico, tu non puoi capire. Noi siamo una famiglia. Abbiamo un patrimonio da difendere. Il mio compito è quello di recuperare quanto è possibile dalle grinfie dei veneziani. E credimi, non me lo sono scelto io. Mi volto distinto verso la cabina di Beatrice. Il sorriso dei Mickets. In un certo senso anch'io, come tutta la gente che vedi su questa nave, sono sul libro paga. Torna a fissare la costa. Non possiamo lasciare a Venezia tutto quanto. Credi che si faranno portar via il malloppo sotto il naso dopo tutto quello che hanno fatto per fottervi? Niente affatto. Dovrò usare la diplomazia, l'inganno e forse anche la forza. Tutte le armi dell'arsenale dei Mickets. Mi strappo una risata. E poi c'è anche un altro motivo per tornare indietro. La famiglia di cui ti parlo è vasta quanto un popolo. A Venezia ci sono 5.000 marrani, come li chiamano, e rischiano tutti di essere imprigionati o uccisi. Bisogna trovare il modo di portarne fuori il più possibile. Annuisco. Cosa faremo nelle terre del sultano? Costantinopoli ti piacerà, vedrai. La città più grande del mondo, oltre 500.000 di uomini. Anche lì sono in molti a doverci dei favori. Solimano in testa a tutti. Che genere di favori? Quelli di cui ti accusava un certo Tanusin Bey? Sorride. Ludovico, la casa dei Miquez è grande quanto il mondo. Per ogni porta che si chiude, un'altra se ne deve aprire. Una robusta pacca sulla spalla. Hasta luego, amico mio. Ci rivediamo a Costantinopoli. Joao scende sul ponte, dove Duarte lo sta già aspettando insieme al fratello. Raggiungono la piccola imbarcazione attraccata sotto la nave. La vela si spiega al vento come uno schiocco. La guardo scivolare via, mentre il capitano dell'ammiraglia dà l'ordine di stare l'ancora. Al largo delle coste romagnole ho smesso di indugiare sull'orizzonte, intirizzito dal freddo. Sotto coperta distendo le ossa indolenzite su una branda. Beatrice mi attende, ma prima un groviglio di pensieri e sensazioni pretende di essere sciolto. Fogli decrepiti, ormai polvere sui 30 anni trascorsi. La moneta del regno di un solo giorno. La copia di un libro che non lascerà traccia. Un taccuino fitto di appunti. La più strana eredità che il destino potesse affidarmi. Heinrich Kresbeck, o qualunque fosse il suo nome, è l'ultimo volto che prende posto nella galleria dei fantasmi. Forse i suoi giorni migliori sono stati quelli trascorsi al mio fianco. Forse è così che dovrei ricordarlo. Desiderava che fosse la mia mano e non quella dei sicari di Carafa a farlo cadere. Invece è rimasto vittima del più ridicolo dei miei nemici e dalla sua stessa macchinazione. Il mulo, miserabile pappone che voleva vendicare un affronto subito approfittando della canea scatenata contro i giudei. Avrei dovuto ucciderlo allora. La risata che mi ha accompagnato negli ultimi tempi torna a salirmi in gola. I destini dei potenti e degli uomini appesi al gesto dell'ultimo coglione. La confessione di Manelfi è bruciata. Gli uomini non sapranno mai che quelle poche pagine avrebbero potuto cambiare per sempre il corso degli eventi. I dettagli sfuggono. Le ombre minori che hanno popolato la storia scivolano via, dimenticate. Le noni, piccoli chierici meschini, fuorilegge senza Dio, sbirri, spie, tombe anonime. Nomi che non dicono niente, ma che hanno incrociato le strategie, le guerre, le hanno fatte saltare, a volte con la testarda consapevolezza della lotta, altre volte per puro e semplice caso, con un gesto, una parola. Sono stato tra questi, dalla parte di chi ha sfidato l'ordine del mondo. Sconfitta dopo sconfitta, abbiamo saggiato la forza del piano. Abbiamo perso tutto ogni volta, per ostacolarne il cammino, a mani nude, senza altra scelta. Passo in rassegna i volti a uno, la piazza universale delle donne e degli uomini, che porto con me, verso un altro mondo. Un singulto squassa il petto. Sputo fuori il groviglio. Fratelli miei, non ci hanno vinti. Siamo ancora liberi di solcare il mare. Sul ponte il vento taglia la faccia volta al tramonto. Rigiro il taccuino tra le mani. Sciolgo il laccio che tiene assieme le pagine. Le scorro. Date, luoghi, nomi. Le riflessioni vergate con grafia più minuta. Un foglio piegato mi cade in grembo. Una carta diversa. A Giovanni Pietro Carafa. Signore, questa è l'ultima missiva di chi vi ha servito per oltre 30 anni. Il tempo nuovo che vi accingete a inaugurare deve dimenticare i suoi anonimi artefici, coloro che hanno concesso agli eventi di combaciare con il piano. I nomi illustri dei vinti e dei vincitori rimangono alle cronache, a disposizione di chi vorrà ricomporre l'intricata vicenda di un'epoca e di ciò che essa ha prodotto. Quando i gesti saranno distanti, e le vite avranno ceduto il passo al futuro, di quel silenzioso esercito di soldati di ventura, oscuri costruttori del labirinto, non resterà traccia alcuna. Dunque, non si tratta d'altro che di accelerare il momento di questa scomparsa, quanto basta per sottrarsi all'ultima esecuzione. L'ingenuità è perduta nel mezzo secolo che sta alle spalle, insieme alle speranze che ho contribuito a cancellare. Non covo alcuna illusione di sfuggire al destino che so essere in serbo per me. Non è la vita che mi preme, poiché fuori dal piano non sono altro che un vecchio mercenario disarmato, circondato dai morti. Quelli lasciati sul campo e quelli che si impadroniscono del mondo. Non sfuggirò davanti a nessuno di loro, ma il mio compito si esaurisce qui. Altri lo porteranno a termine. Mi accingo a incontrare un ultimo vecchio avversario. Spero che sia lui a spegnere gli occhi che vi hanno così fedelmente servito per tutta la vita. Una vita scivolata via anch'essa, insieme alle migliaia, decennio dopo decennio, soffocata nel sangue, e che scelgo di finire a modo mio. Non potete farci niente, nemmeno rimproverarvi per non aver previsto la defezione del miglior agente nell'ultimo miglio. La mente degli uomini compie strane evoluzioni e non esiste un piano che possa comprenderle tutte. Questo impedirà a ogni vittoria di compiersi fino in fondo, anche alla vostra. Questo fa sì che nessuno muoia invano, nemmeno chi, con il suo ultimo gesto, vi somministra questa lezione. Il vostro osservatore, Q.